Non ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. E sempre a conferma, ogni volta porto argomenti a suffragare la tesi che non ci siano più mezze stagioni. Oggi vi dirò questo: sino a qualche tempo fa, sapete, c'erano i saloni dedicati agli sposi, ai matrimoni, no? Con quindi abiti da sposa, abiti da sposo, tutti gli elementi per il ricevimento, per le feste, eccetera, eccetera. Adesso invece apre proprio questo fine settimana, oggi e domani, a Parigi, per la prima volta, il salone della separazione e del divorzio. Non per incitare ovviamente alla separazione e al divorzio questo salone, ma per fare poi consulenza giuridica, legale e anche psicologica, no? A chi si separa. Perché pensate che in Francia, adesso c'erano due dati un po' diversi, uno secondo il quale in Francia una coppia su due divorzia dopo poco, un altro invece quattro coppie su dieci, insomma una percentuale un po' diversa, però comunque piuttosto sostenuta, ecco appunto perché non ci sono più le mezze stagioni. Ma attenzione, come sempre vi ricordo che il nostro scopo qua insieme, io e voi, è di fare il bilancio delle notizie della settimana, di ritornare con libertà a riflettere sui fatti che più vi hanno colpito, no? Fare di nuovo un punto e dire liberamente la vostra opinione. E come sempre il numero verde da fare è 800 24 00 24. Numero verde, quindi gratuito, 800 24 00 24 e immancabile un opinionista estemporaneo, ci vuole anche oggi in ogni puntata. Oggi sarà... Luca Telese. Buonasera, buongiorno. Luca, credo stia andando verso un altro fuso, perché sei in treno senza avvertirmi, hai preso il treno, come mai Luca? Sei... Perché ho un impegno a Reggio Emilia, vado a presentare in mezzo ai partigiani il mio libro sulla svolta della Bolognina. Bene, senti Luca, poi mi direi come ti avranno accolto. Luca Telese, giornalista notissimo, conoscete, ha lavorato anche molto per Radio 24. L'ultimo libro, per l'appunto, pubblicato per Sperling & Kupfer, si intitola Qualcuno era comunista, forse si include anche Luca Telese in questo, credo di sì, sottotitolo Dalla caduta del muro alla fine del PC, come i comunisti italiani sono diventati ex e post. Tra l'altro cadi proprio a fagiolo, Luca Telese, perché insomma tra due giorni, il 9 novembre, cade l'anniversario della caduta del muro, a proposito di cadere del muro, dell'abbattimento del muro di Berlino, no? Del 9 novembre 1989. Tu racconti un po' anche dell'evoluzione da lì del Partito Comunista, Occhetto, la Bolognina e tutto il resto. Ci dici proprio in due parole un po' il contenuto di questo libro piuttosto voluminoso che vai a presentare oggi anche. Guarda, il mio racconto proprio dal giorno della caduta del muro, con una cosa, una ricostruzione che forse diverterà, se non lo sanno, gli ascoltatori di Radio 24, perché il muro di Berlino è caduto proprio per la domanda di un giornalista italiano. Si chiama Riccardo Herman, adesso ha 80 anni, e quel giorno fu proprio lui a mettere alle strette il portavoce del governo della RDT, che si chiamava Gunther Boschi, a incalzarlo, a dirgli: ma insomma, questa legge che avete fatto sul transito è una vergogna, è una legge di viaggio truffa, se uno chiede il passaporto finisce sulla lista nera. E di fronte a queste domande incalzanti non erano abituati i leader del socialismo reale a un batti simile. Gunther Schabowski si lasciò scappare in diretta televisiva una frase epocale, disse: vabbè, ma insomma si può passare anche da oggi, anche da subito. Ma l'ha deciso lì al momento, esasperato dalle domande, o era già in progetto evidentemente questa cosa? C'è un retroscena, anche questo lo racconto. Herman, come nei film di Le Carré, ricevette una telefonata la mattina di una sua fonte che si definiva il sottomarino, lo U-Boot, e si chiamava così perché era il direttore della più importante agenzia di informazione della Repubblica Democratica Tedesca. Stava in un sotterraneo, in tutti i paesi del mondo i giornali sfidano il cielo con i grattacieli, lì giustamente nascondevano le notizie e nascondevano anche l'agenzia. Allora, siccome i telefoni erano sorvegliati, questo informatore, che era Gunther Porsche, anche lui si chiamava Gunther, disse: sono il sottomarino e ti do una dritta, oggi nella conferenza stampa fai una domanda su queste cose. Poi Herman mise il suo talento di giornalista, e c'è anche un altro particolare buffo che dà l'idea di come la storia procede anche per caso. Era appena tornato dalle ferie Gunther Schabowski, il premier gli aveva dato un bigliettino stropicciato, lui, siccome era incalzato le domande, disse anche da subito, in realtà voleva, nel biglietto c'era scritto anche nei prossimi mesi, E, però l'incalzare della storia non conosce tappe, i tempi erano già maturi, accadde quello che succede quando un'epoca chiude la saracinesca. Insomma, il secolo breve finì quel giorno, 9 novembre del 1989, 20 anni fa esatti. Che momento epocale. E senti, mi sta venendo in mente, prima appunto di passare poi ad altre cose, al numero verde con gli ascoltatori 800240024 sulle notizie di questa settimana, che a proposito di comunismo, no? La Cina che ha il suo, ormai cos'è, una specie di mélange, no? Tra comunismo di Stato, economia di mercato, insomma. Comunque non si fermano solo nello sviluppo economico. Adesso hanno deciso che l'uomo sapiens, l'homo sapiens, non è nato in Africa come abbiamo pensato per tanto tempo, ma in Cina. Hanno detto a Pechino. Vogliono avere proprio il primato su tutto ormai. Adesso hanno fatto anche causa alla Fiat, rivendicando la primogenitura della Pero, una macchina che hanno fatto fotocopiando la Panda. Hai ragione, combattono su tutto, dalle origini paleontologiche ai modelli dei motori. È un plagio totale, vabbè, comunque insomma. Senti Luca, mentre tu viaggi e mentre rifletti anche tu sulle notizie della settimana che più ti hanno colpito, io direi di avere il solito punto di vista anche da un altro pianeta. Riflessioni da Marte. C'è una cosa che proprio non si riesce a capire qui da Marte, no? Sarà che il pianeta rosso è piuttosto distante dalla Terra e quindi, come si può dire, le cose arrivano un po' in differita. Ma insomma, l'influenza A deve preoccupare o non deve preoccupare? Uno starnuto è uno starnuto o un'arma di distruzione di massa? L'Italia è il paese più colpito d'Europa, il meno colpito o quello così così? È più opportuno vaccinarsi o mangiare la coda alla vaccinara? Beh, insomma, come dicevo, su Marte si è capito gran poco di questa faccenda, sarà colpa evidentemente della distanza astronomica. In ogni caso, bisogna dirlo, il mondo è dei batteri, che si impadroniscono anche dell'ultimo scampolo di romanticismo umano. Secondo infatti una ricerca dell'Istituto di Scienze Psicologiche dell'Università di Leeds, in Gran Bretagna, il bacio non è null'altro, attenzione, null'altro in realtà, che è una forma di protezione contro il citomegalovirus, che già dal nome sembra un megalomane. In particolare, nei baci eterosessuali, anticorpi. Lo scopo del bacio è di aiutare la donna a sviluppare anticorpi in caso di gravidanza. Pure il bacio, quello di Via col Vento, senza eccezioni. Insomma, a questo punto, stracciata come il fondale di una messa in scena, anche una delle ultime illusioni rimaste. E anche dopo aver appurato che la serie più seguita in Italia non è Mr. House, non è Un medico in famiglia, ma Le anticipazioni quotidiane del libro di Bruno Vespa, ebbene, dopo tutto questo, riecheggia dispettosamente insidiosa nella mente la frase dell'appena scomparso Claude Lévi-Strauss, che diceva: dobbiamo cercare di continuare a vivere come se la vita avesse un senso. Sempre in viaggio il nostro Luca Telese, e arrivano le vostre telefonate al numero 800240024. Sono curiosa di sentire un po' quali sono le notizie che vi hanno colpito. Tra poco c'è Adriano dalla provincia di Como, c'è Renzo da Roma. Se volete, come al solito, io tento una disperata sintesi di una parte infinitesimale delle notizie di questi giorni. Naturalmente l'Assemblea Nazionale del PD, che è ancora in corso a Roma, Bersani proclamato segretario, Bindi presidente del partito, Marina Sereni e Ivan Scalfarotto vicepresidenti, e poi la nuova influenza, appunto, non so voi che cosa abbiate capito. Comunque l'OMS dice che è pandemia anche in Europa, 30% delle vittime sono giovani sani, superati, dice l'OMS, 6.000 decessi nel mondo, ma Fazio, vice ministro della salute, rassicura in Italia. Poi la sentenza della Corte Europea sul crocifisso e con tutte le polemiche che ha scatenato il governo italiano che vuol fare ricorso, l'OCSE a proposito di economia che dice che c'è la ripresa, che l'Italia è ai primi posti, dice Berlusconi, siamo il sesto paese più ricco. Poi gli sviluppi col contagocce del caso Marrazzo, Berlusconi nelle anticipazioni del libro di Vespa, che dice mai mirato al Quirinale, su di me calunnie, e rilancia il Presidente del Consiglio, il Premier eletto dal popolo. Poi Maroni che lancia l'allarme delle cellule terroristiche che si stanno formando in Italia. A proposito di mafia, Vito Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, aggiunge altre dichiarazioni, altre rivelazioni, e dice che è stato Provenzano a tradire Rina, il capo dei capi. Finita la discussione, cioè finita, insomma, sapete che si voleva riaprire, Alfano voleva riaprire, il ministro della giustizia, il supercarcere di Pianosa, che ormai fa parte, Pianosa, una bellissima isola dell'arcipelago toscano, del parco nazionale, protetto, insomma. Un po' di diatriba con la ministra dell'ambiente Prestigiacomo, sembrerebbe che tutto sia risolto, però invece Alfano dice se ne parlerà poi alla conferenza Stato-Regioni. Il caso Abu Omar, con la sentenza che c'è stata, Niccolò Pollari e Marco Mancini, ex Sismi, non sono condannabili perché c'era segreto di Stato su questo rapimento che avvenne dell'ex imam di Milano Abu Omar, però sono stati condannati a pene tra 5 e 8 anni gli ex 007 americani che si sono occupati materialmente di rapire l'imam, col disappunto adesso degli Stati Uniti. A proposito degli Stati Uniti, in Texas la strage che c'è stata di un soldato che ha sparato sui suoi 13 compagni perché aveva paura di andare in guerra in Iraq, in Afghanistan, e poi anche ieri il caso di Orlando in Florida, anche lì si è sfiorata la strage, e poi insomma il bilancio più contenuto, un morto e 5 feriti. L'Iran che continua a fare braccio di ferro con la comunità internazionale, dire sì, va bene, venite a controllare l'uranio arricchito, va bene, lo arricchiamo fuori dalla nazione, adesso no, di nuovo dice no, non andrà all'estero il nostro uranio arricchito. Allora anche la Russia si arrabbia e dice vabbè, allora passeremo alle sanzioni. Il caso Cucchi in Italia, Alfano dice che faranno chiarezza, speriamo quanto prima, il ragazzo che è morto in prigione. Lo sciopero, visto evidentemente Luca Telese è partito in anticipo, perché lo sciopero dei treni c'è da stasera dalle 21 sino alle 21 di domani, domenica sera, anche se le ferrovie dicono che l'80% dei treni di media lunga percorrenza andrà comunque. Poi la morte della poetessa Alda Merini e la morte del padre dell'antropologia moderna Claude Lévi-Strauss. Luca Telese, c'è qualcosa su cui vuoi soffermarti o...? Beh, ci sono tante cose che ovviamente mi colpiscono. La prima è questa storia di Stefano di Cucchi, che a noi ha colpito molto al fatto, anche perché abbiamo fatto una scelta molto difficile. Abbiamo scelto il primo giorno, il venerdì, quando la famiglia fece la conferenza stampa, di pubblicare le foto del suo cadavere in prima pagina. Sì. Ci siamo, sai com'è, Roberta, alle volte questo mestiere è difficile, no? Delle foto dure. Abbiamo litigato in redazione, alla fine abbiamo capire detto se era la decisione giusta. E adesso siamo contenti di averlo fatto, perché è stato veramente il grimaldello che ha permesso di arrivare a un frammento di verità. Lì c'era un ragazzo a cui era stato negato addirittura un avvocato, e adesso si scopre che è stato trattato, diciamo, con delle procedure da terzo mondo, da davvero, Repubblica. Davvero? Dove penseresti di finire così, appunto, in qualche paese estero lontanissimo, dalla Turchia, Cile, l'Argentina, nei periodi della dittatura, non ora. Ora sono dei paesi civili. Sì. Però la cosa che volevo raccontarti era questo, cioè ci sono dei giorni in cui tu chiudi il giornale, e questa strana sfasatura, il giornale lo vedi il giorno dopo, le reazioni del giorno dopo. Noi quella sera più persone in redazione non abbiamo dormito dicendo Dio, cosa abbiamo fatto. Invece poi le persone hanno capito e quel gesto è servito. Certo. Io sto solo pensando in queste ore cosa deve essere costato, se per noi che siamo degli estranei comporta questo, cosa deve essere costato per la madre, la sua famiglia, per il figlio straziato, e dire le do ai giornalisti. Era l'unico modo evidentemente di tentare di ottenere giustizia, cosa che speriamo abbiano il prima possibile i parenti. Senti Luca, cominciamo a sentire le voci degli ascoltatori e delle ascoltatrici. C'è Adriano, dicevamo, dalla provincia di Como. Adriano. Salve. Io volevo intervenire su una cosa un po', diciamo, meno grave, però a mio parere poi anche collegata a queste problematiche di illegalità. Sì. Che semplicemente tutti questi trans, ormai di moda nei salotti delle varie trasmissioni in televisione, ecco, io sono scandalizzato da questo, ma non perché sono un moralista, perché sono un bacchettone, sono scandalizzato in quanto queste persone hanno dei guadagni illeciti. Cioè, voglio dire, è come invitare in trasmissione, diciamo, tra virgolette, sdoganare un contrabbandiere, uno che vende le sigarette di contrabbando. A mio parere è la stessa cosa. Comunque questi qua, non so adesso se la prostituzione. Adriano, scusami, non lo so, se lo fanno, diciamo così, da professionisti autonomi, credo, cioè, l'Italia come il resto del mondo è pieno e non c'è sfruttamento, tra l'altro, quindi non c'è anche questo tipo di reato da parte di qualcuno che li schiaccia, che li sfrutta, che li schiavizza. Non è ancora chiaro se sia, se lo fanno privatamente in un alloggio, in una casa, che sia reato. Ecco, questo è chiaro. È ovvio che non sono penalmente perseguibili, però lo dico a livello fiscale. Io ho visto anche un... certo, è quello. Poi inizia anche da lì, la democrazia è anche quello, a mio parere. Ho visto un servizio delle Iene dove il trans asseriva di guadagnare 20.000 euro al mese, per cui queste persone sono tassabili per 100.000 euro l'anno. E si immagini, non so... 1.000 persone, 1.000 di questi qua, che gettito che fanno? Beh, abbiamo trovato altri evasori, altri lo si sa, esatto, non sono magari i maggiori evasori del paese. Sono evasori fiscali che vengono, diciamo quasi, che ormai sono di moda, che vengono, insomma, fanno una cosa di illegale davanti agli occhi di tutti, ecco. Grazie, interessante questa lettura di Adriano. Sentirei ancora fra gli ascoltatori e ascoltatrici che stanno chiamando un altro parere e poi mi dici, Luca, su cose di cui stanno parlando gli ascoltatori, vuoi intervenire? Adesso c'è Renzo da Roma. Buonasera, pronto? Buonasera Renzo. Eccomi. Innanzitutto per la trasmissione. Grazie, questo fa sempre piacere. Io da attento osservatore dell'attualità, diciamo, mi ha colpito e un po' si rilega un po' a quello che poi dicevate prima a proposito di Vespa e dell'anticipazione del libro di Vespa, mi ha fatto sorridere da un certo punto di vista che proprio in settimana il Premier abbia deciso di rispondere finalmente alle 10 domande di Repubblica. E questo è stato un po', insomma, la cosa che ho letto con una, tra virgolette, un entusiasmo un po' ironico, perché poi in realtà, da quello che ho letto nelle anticipazioni dei giornali, insomma, le risposte erano piuttosto generiche, evasive, e su alcune, forse le più importanti, il Premier ha glissato. Ecco, questo mi è parsa una cosa singolare, soprattutto che abbia deciso di farlo non pubblicamente come il giornale che faceva il suo dovere, cioè Repubblica, martellava da mesi, ma l'abbia fatto tramite anticipazioni di un giornalista su poi un libro pubblicato dalla stessa casa editrice del Premier, del quale è editore e titolare, insomma, quindi è tutto un conflitto di interessi, ma poi ecco una incompletezza proprio nella risposta. Cioè sono del parere che avrebbe dovuto rispondere ovviamente in Parlamento di questa cosa della quale si dibatte da mesi e mesi, perché era praticamente aprile, no? Da quando è stata la prima uscita dalla festa di Noemi, passando per la D'Addario, insomma, tutte le dichiarazioni poi della signora Lario. Ecco, questo è stato. Renzo, adesso prima di passare subito la palla a Luca Telese, anche su questo, tu sei in macchina, posso chiederti dove stai andando? Sì, esatto, sono a Roma, sul raccordo. È congestionato come al solito, o il sabato è un po' più a quest'ora? No, magari? Il sabato per fortuna è più tranquillo. Beh, sì. Vai a lavorare o vai a distrarti? No, a distrarmi, vado a distrarmi. Non faccio altre domande, grazie Renzo. Luca Telese. Allora, non vorrei lasciar cadere la provocazione di Adriano, vorrei confessare che sui trans e l'evasione fiscale abbiamo appena chiuso uno speciale che esce domani sul Fatto, con tutti i verbali del caso Marrazzo, quindi ieri li guardavo. L'ultima cosa che mi è venuta in mente è il problema fiscale. Anche a me, però. C'è una rivoluzione di costumi, c'è uno sconvolgimento, c'è la concorrenza di un terzo sesso che compete con le donne, che vuole, come dire, affermare addirittura una tutela del genere maschile più forte di quello delle donne, e arriva il signor Adriano e pensa al problema fiscale. Ma è, certo, è importante, però è come, non lo so, è come guardare il dito invece che la luna, con rispetto. Sì, cioè, anche un po' un pensiero laterale, però. Marrazzo ci pone legittimo. Qualche problema in più, tu che ne dici? Direi proprio di sì, certo. Dicevo che appunto era un appunto, un'osservazione piuttosto curiosa questa di Adriano, è comunque legittima, per carità, ti fa vedere le cose anche da angolazioni diverse, per questo che è anche interessante sentire. Paese, anche qui non so che termine usare, ma insomma, in cui ci sono 9 milioni di clienti delle prostitute, allora lì si fanno due o tre finanziarie. Seguiamo la sua provocazione, ma allora non preoccupiamoci solo solo dei clienti dei trans, ma anche di tutte quelle prostitute che esercitano in casa, per strada, nelle nuove case chiuse, non sono pochi. Certo, ma in quel caso non per evasione fiscale, ma per proteggere le vittime della tratta delle schiave, insomma, no? Che è una cosa questa, tutti si lavano un po' la coscienza, è un lavoro che è sempre esistito, il più antico del mondo, intanto queste poverette veramente sono schiave dei loro, quelli che si chiamano protettori, ma in realtà appunto papponi, magnaci, più volgare ma più veritiero. E invece sulla questione anticipazioni Vespa e Berlusconi, che avrebbe risposto alle, indirettamente alle domande di Repubblica, Luca? Ci sono! Sì, sì, ecco, con della musica sei in discoteca, dove sei adesso? No, non c'è nessuna musica, ah. È un rumore di fondo. Ferroviario, diciamo. Ecco, esatto. Su questa cosa invece, sulle anticipazioni e sulle risposte... Allora, questo è quel genio di Bruno Vespa, cioè di solito anche tutti nel nostro piccolo gli autori provano a dare un'anticipazione ai giornali. Una. Invece Vespa che cosa riesce a fare? Lui prima fa 10 interviste di attualità con i più grandi potenti italiani e poi dopo alla fine rilega il libro dopo una settimana che fa le anticipazioni. Quindi il libro è una posticipazione in realtà delle interviste di Vespa. Geniale. E poi lui lo faccia sul suo... sulla mia casa di show il premier, con il premier diventa quasi un dettaglio, no? La cosa più grossa è che abbiamo scoperto, grazie a Vespa, malgrado tutto questo, lui fa il giornalista, perché abbiamo scoperto che nel famoso e incredibile messaggio di Veronica Lario c'era una parola censurata. Che miseria. Il direttore dell'ANSA ha chiamato Berlusconi e gli ha detto: scusa, ma qui posso? Tua moglie dice una cosa su di te e io vorrei togliere questa parola. Cioè, quella è la fantascienza. Poi la parola oggi noi l'abbiamo anche scritta, non so se la posso ripetere a Radio 24, posso Roberta? Beh, direi proprio di sì, nel senso che se è pubblicata... Diceva quel maiale di mio marito. Quindi... Beh, lo dicono tante donne, quindi non era così grave come si è pensato, pensavo di peggio, sinceramente. E infatti, ma perché il direttore dell'ANSA si è dovuto infilare in questa cosa coniugale, poi andando a scegliere come consulente, diciamo, Berlusconi, che non è male, essendo lui, come dire... Il diretto interessante. In questione... Vabbè, senti Luca, allora ritorniamo ancora alle telefonate di chi sta chiamando. Ci sono Manuela da Cuneo, Mariella da Trieste, numero verde 800 24 00 24 per continuare a commentare così in modo libero i fatti della settimana. Manuela, buongiorno. Buongiorno Manuela. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io chiamo per parlare delle ronde. Sì. Cioè del flop delle ronde. Sì, volevo dire del pacchetto una cosa. Sicurezza dovevano partire, però sembra che ci siano sì. Pochi sei iscritti in Italia. Mi fa molto ridere questa questione delle ronde, che poi erano tutti cissatissimi, sì, andiamo di sera, controlliamo, ci organizziamo in gruppi e tutto un po', già mi faceva un po' ridere, perché dico, ma bisogna poi vedere come va. E poi alla fine, in effetti, anche se Maroni dice che non ci sono stati dei fondi, per cui è per quello che la gente non si è riunita nelle ronde, perché mancavano i soldi per comprare i cellulari, piuttosto dei giubbottini eccetera, io credo che gli italiani pensino un po' così. Prima si dicono un po' come quando ci si trova al bar e poi uno con l'altro ci si gasa e si dice sì lo facciamo, ci eccetera, si fomenta eccetera. Un po'. Poi quando si arriva al sodo dice ma è lunedì sera, non posso, sai com'è, sono un po' stanco la domenica, il martedì ho avuto una brutta giornata, quindi alla fine poi non trovano mai la serata giusta per fare quella cosa lì, no? E quindi diciamo che penso che poi fondamentalmente, insomma, gli italiani sono un po' quelli che dicono sì lo facciamo, però poi armiamoci partite, praticamente pensano sempre ecco, esatto, che poi lo fa qualcun altro e fondamentalmente poi questo qualcun altro non c'è mai. Manuela, ma in tutto questo tu saresti stata favorevole o no? Assolutamente no, io non sono favorevole a questo, io credo che sia sbagliatissimo, credo che dovremmo invece cercare di dare più fondi alla polizia, ai carabinieri, magari anche fargli fare dei corsi, che ne so, qualche cosa di modo che siano anche più preparati per ogni situazione, visto che insomma la criminalità cambia e poi non c'è soltanto criminalità. Secondo me bisognerebbe anche, non so, mettere delle persone che capiscano anche di più i ragazzini che magari vanno a rubare o a scippare tutto un po', che forse è proprio anche manca anche forse un po' questo, a volte c'è troppa brutalità e poi per uno sbaglio che uno fa da piccolo poi si trova incanalato in certe direzioni. E poi dopo volevo ancora fare soltanto una battuta, così sì. Tanto per dire, visto che lei all'inizio ha detto che praticamente gli scambi dei batteri si hanno grazie ai baci tra eterosessuali, no? No, diciamo che tra gli eterosessuali servono per le donne per immunizzarsi in caso di gravidanza. No, non ho capito tutto, infatti mi dicevo, ma i poveri omosessuali, poveracci, già sono lì sfigatissimi. No, si immunizzano da soli senza bisogno di gravidanza, evidentemente, quando ci sono, poi ci sono anche donne che hanno le gravidanze lo stesso. Anche se non c'è uno scambio di batteri. Certo. Perché, come diceva la marziana, i batteri sono i padroni del mondo. Grazie Manuela, tra un minuto ci prendiamo una pausa, però vorrei riuscire a sentire anche, anzi direi Mariella da Trieste, Ignazio da Verona. Mariella, tu hai pazienza di aspettare dopo la pausa? Ma certamente sì. Grazie, mi vuoi anticipare la tua notizia? Ah, io volevo parlare, intanto saluto lei e Luca Telese, che mi piace sempre molto sentirlo, insomma. Grazie, no? Ma ci possiamo dare del tu anche Mariella? Ascolto sempre Radio 24, che mi piace, cioè complessivamente, ecco. Ci sono certe trasmissioni come la pagina economica, che mi piace veramente moltissimo, e poi insomma la zanzara, anche se non sono sempre in sintonia. Mariella, allora ci sentiamo dopo anche con Ignazio da Verona, sempre al numero verde 800 24 00 24. Luca Telese, in 37 secondi hai un commento da fare a quanto sin qui detto? Sì, fantastica, la nostra ascoltatrice ha capito più di due o tre statisti, no? L'immagine delle ronde è questa: la prima volta che le hanno fatte a Padova ci è voluta la polizia per proteggere i rondisti. Caro Luca, io ringrazio anche chi in questo momento collabora con me, nel senso la parte tecnica, i suoni, le cose che sentite, c'è Paolo Corleoni, e poi ho la mia quota azzurra piuttosto consistente oggi. Poi i telefoni roventi ci sono Mattia Nocchi e Giorgio De Luca, e quindi se arrivano tutte queste telefonate riescono a gestirle, sono molto seguito questo programma, caro Luca, e quindi ci vogliono in questo caso almeno due baldi giovani. Allora, ritorniamo sulle telefonate. C'è Daniela, c'è Mariella, c'è Ignazio. Dicevamo, ce l'hanno lasciati con Mariella da Trieste. Eccomi qua. Io approfitto perché se mi metteste quel brano Ghost, che è della colonna sonora di quel film straordinario, sì, a me farebbe un grande piacere. Ecco, questa è la parte diciamo più bella. Ecco. Lo so, dopodiché, però non possiamo fare dediche musicali in questo momento. Ma dedicaci il tuo pensiero. Dire, ho sentito questa storia della musica, io sì, ho lanciato così un titolo, ecco. Torniamo a quello a me ha colpito durante la settimana. Sì. La grande ipocrisia che regna nel governo italiano, cioè in genere nei parlamentari italiani. Allora, lei si ricorda la diatriba che c'è stata con la Svizzera a proposito dello scudo fiscale, no? Sì, dei controlli che ci sono stati nelle filiali svizzere, delle banche, ecco, nelle filiali italiane. Allora, delle banche l'altro pomeriggio, tre giorni fa mi sembra, non più tardi di questo, la radio, Radio 2 per l'esattezza, sì, ha intervistato un esponente della finanza svizzera, cioè non era sicuramente uno di noi. Sì. E sa che cosa ha detto questo qua? Cosa ha detto? A proposito di questo scudo fiscale? Sì. Ha detto che se loro dovessero spifferare fuori i nomi di quelli che hanno i conti cifrati in Svizzera, dopo mezz'ora tutto il Parlamento italiano dovrebbe andarsene a casa. Punto e basta. Questo è fatto. Ancora vorrei dire, come siamo messi, voglio dire. Allora, la politica italiana è piena di ipocrisia. Senti, la politica italiana, Mariella, ma abbastanza, non completamente, ma in parte. Però a questo proposito, Mariella, prima di sentire le altre telefonate, Luca Telese, c'era un pezzo sul Corriere oggi, non so se lo riacchiappo, mi pare che fosse il Corriere, che diceva la politica e l'economia intasata dalla cocaina. Sì, sono... No, e poi sai che c'è stato questo rapporto 2009 dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, che dice l'Italia ha primato insieme a Spagna e mi pare Irlanda sul consumo di cocaina. Che ci trovano nella cocaina? Io non lo dico per moralismo, non lo so. Che cosa? Come mai questo successo? Anche lì il caso Marrazzo in qualche modo ci ha svelato il segreto, sì, di Pulcinella, no? C'è una vita frenetica, sfrenata, ipocrita, c'è una doppia morale, quindi viviamo tutti al di sopra del nostro voltaggio, al di sopra delle nostre possibilità, e la cocaina non è altro che uno dei carburanti che si usano per raggiungere questo tenore di vita. Però tutto andrebbe bene se non ci fosse la grande ipocrisia, e magari quelli che fanno le leggi contro la droga sono gli stessi che abusano degli stupefacenti. Allora c'è Daniela, Daniela, prima c'era Ignazio da Verona, così cerco di un po' per cronologia rispettare un po' i tempi. Ignazio. Buongiorno. Buongiorno a te, Ignazio. Allora, niente, io volevo parlare delle 10 domande, nel senso, io prima ho sentito un ascoltatore che l'ha presa sul sorridere, no? Diceva, mi 10 domande di Repubblica a Berlusconi anticipate, diciamo, da Vespa, dal libro di Vespa in questi giorni. Sì. Io sono indignato, io mi vergogno di far parte di una nazione così, di italiani che siamo considerati dei sudditi ignoranti. Come si può pretendere che la gente creda solo una cosa che c'è scritta in quel libro? Insomma, Bruno Vespa tutti sappiamo che è la che di Berlusconi è inutile, scusate i termini, io cerco di essere più franco possibile. Tu esprimi la tua opinione, sì. Ecco, ci stupiamo di Santoro quando Bruno Vespa su Rai 1 ne fa di cotte e di crude. Allora, è la che di Berlusconi scrive dove produce i suoi libri e di proprietà di Berlusconi, come ha detto prima l'ascoltatore. Io dico, come ci si può credere? Poi comunque non ha risposto veramente a tutto, può dire quello che vuole. Vespa, mi dispiace, è un cortigiano e pensa che noi siamo dei sudditi. Questo a me veramente mi indigna. Io come un libero professionista, come imprenditore, cosa fai? Cosa io fai? Mi vergogno veramente di una situazione del genere, di gente che ci considera un'italietta. Se lei va in giro per il mondo ci prendono in giro con queste cose. Dicono, io sono stato a Parigi da poco per lavoro e hanno detto, c'erano dei signori, stavano parlando, dicevano, ma è una berlusconade. Io ho chiesto cosa volessero dire e hanno detto, no, ma quando qui si fa una cazzata dicono è una berlusconata. Ma noi siamo imprenditori che giriamo il mondo, ma ci vergogniamo. Poi tutta un'altra cosa, un'altra lezione ce la dà Marrazzo, poi vorrei concludere. Sì. Marrazzo, con tutto quello che ha fatto, che si è detto su sto Cristo poraccio, ok, ha dato veramente una lezione di democrazia a tutti. Cioè si è dimesso. Ma Berlusconi, con quello che ha fatto, non dovrebbe solo dimettersi, si deve vergognare, intanto per il ruolo che ricopre, e se veramente vuole dare un senso all'istituzione che rappresenta, si deve dimettere, deve avere almeno il coraggio e la faccia di farlo, non anche se viene condannato per il caso Ciro o per Mills, capito, non si dimette. Lui non sta dando una lezione di democrazia a nessuno, veramente lui sta cercando in tutti i modi di premiare le persone corrotte, le persone corruttibili e i delinquenti. Grazie Ignazio. C'è Daniela da Bergamo adesso, sempre il numero verde, ve lo ricordo, 800 24 00 24, esprimendo liberamente, basta che appunto con civiltà, le vostre opinioni. Daniela. Buonasera. Io volevo cambiare un po' argomento. Daniela, adesso si comincia. Scusa, Daniela. Daniela. Pronto, Daniela? Ho letto accuratamente tutto ciò che il Ministero ha emanato in maniera di prevenzione. Sì. Però ho visto che è una cosa che fanno spesso i ragazzi in discoteca, a scuola, cioè il passaggio di bottigline, di lattine e di quant'altro di bocca in bocca. È una cosa che è comunissima e mi sembra strano che il ministro dell'istruzione e il ministro della salute pubblica non abbia emanato una norma per dire di stare a fare attenzione a non passarsi le cose di bocca in bocca. E forse è una cosa banale. Diciamo che è uno di quei consigli che si possono dare così molto banalmente ma molto utilmente. Tra l'altro tieni conto che invece, dov'è che era? Aspetta che la cerco, in una chiesa della Brianza. Ecco, è stata installata un'acquasantiera antivirus, cioè una fotocellula, tu non intingi le dita come si fa di solito, ma avvicini la mano, ti cade la goccetta e così, vedi, qualcuno si dà già da fare anzitempo, anzi insomma, visto che il tempo corre, diciamo, ecco, questa è un'idea, magari qualcuno può trovare un po' strampalata, però visti che i tempi insomma, l'acquasantiera ai tempi dell'influenza. Grazie Daniela. Luca, sei sempre in viaggio? Sì, ma vi sento chiaramente. Volevo dire una cosa. Sì. Sono molto ascoltatore. Sul caso Marrazzo non sono d'accordo con lui. Con Ignazio. Dal punto di vista della qualità, Marrazzo e Berlusconi abbiano lo stesso imperdonabile errore. Cioè hanno mentito. Mm. Io sono andato il venerdì in cui Marrazzo diceva che la vicenda era una bufala e lui ha raccontato a tutti i giornalisti che non esisteva il video, non esisteva. Sì, ha fatto molto male, è vero. E che era un complotto, in cui è stato identico a Berlusconi, quindi forse l'unica cosa è che dovrebbero entrambi seguire lo stesso destino. C'è adesso Diego, da Trento, chiama. Diego. Eccomi qua. Eccoci qua, Diego. Che ti frulla per la mente? Sono felice che Luca sia al telefono sulla vicenda. ANSA, parola tolta dal direttore, per fare una piccolissima riflessione. Direi che questa vicenda ha due aspetti, uno di natura politica che ahimè è quella che in qualche maniera condiziona il ragionamento in assoluto, però c'è anche un aspetto di natura legale, cioè io credo che i giornalisti comunque si debbano attenere a delle norme di legge che sono state fatte, e tra le norme di legge che ci sono è anche quello di evitare, seppur indirettamente, di offendere le persone. Beh, perché questa è fonte poi di reazione. Ma non credo che questo sia incluso in che questa regola. Non sono d'accordo con evitiamo i nomi perché ovviamente non è riferito Diego, a però permettimi che, Diego scusa Diego, mi senti, permettimi un'obiezione. Prego. Però in questo caso, che la parola fosse pesante o meno pesante, io pensavo tutt'altro, non mi pare così terribile, però non era il giornalista che la diceva nei confronti ma era una persona, responsabilità comunque oggettiva del giornalista, e allora non bisogna mai riportare le dichiarazioni. No, c'è un aspetto che è importante, che va sottolineato, perché un conto è un singolo giornale, come avviene su vari fronti in questo momento, che decide autonomamente di pubblicarlo. Nel momento in cui l'ANSA dà quella notizia, arriva a tutti i giornali italiani, a tutte le riviste, a tutte le radio, a tutte le televisioni. Quindi potenzialmente può partire un procedimento di natura penale che è infinito. Quindi il problema, ripeto, in questo caso c'è una seconda valutazione di natura politica che giustamente fa fare una serie di ragionamenti, ma prima c'è anche una valutazione di natura. Senti, sulla valutazione personale, politica, posso essere d'accordo, poi insomma a coscienza propria, però visto che chiami un po' in causa la mia categoria, non lo so se proprio è così. Non so, Luca, cosa ne pensi tu? Grazie, Diego. C'è qualche regola che vieta, in caso c'è la dichiarazione di una persona, anche in vista nei confronti di un'altra, di evitare di riportare questa parola, perché sennò si incorre in qualche reato, in qualche... Luca? Mi senti, Luca? Sì, ti sento. Sto chiedendo a me se c'è qualche... Sì, sto chiedendo a te. Non mi convinceva molto questa cosa di Diego. Poi invece magari mi sbaglio. Chiamava in causa noi giornalisti dicendo che c'è una regola che dovrebbe vietare perché possiamo incorrere in qualche querela, ma non lo diceva il direttore dell'ANSA, quella parola, maiale, ma diceva. No, noi riportiamo decine di parole che sono borderline, che sono scorrette. Se dovessimo censurare ogni parola che si fa così, non scriveremmo niente. Non potremmo fare i giornali. Ma scusa, in aula, nell'aula di Montescoli, il parlamentare di Italia dei Valori ha coniato il termine escortiere. Riferito al nostro premio, che cosa facciamo? Non lo scriviamo perché sennò Berlusconi querela. Mi pare un po' una follia. Berlusconi come chiunque altro, insomma, chiunque se altro, sentite un po' disturbato Luca Telese, non è perché sta lavando i piatti e c'è la lavastoviglie, è perché è in treno e deve viaggiare perché va a presentare il suo libro. C'è poi Tina dalla provincia di Milano, c'è Fulvio da Cesenatico, sempre al numero verde 800 24 0024, così pensate un po' alle notizie che vi fanno pensare questa settimana. Abbiamo un minuto prima della viabilità. Tina dalla provincia di Milano, ce la fai a dire in 61 secondi il tuo pensiero? Tina? Mi sento? Pronto? Mi risento nel tuo soggiorno, puoi spegnere la radio per favore? Pronto? Sì. Sì, sono qua. Ecco, volevo parlare dell'informazione che state dando voi giornalisti tutti sull'influenza. Sì, sì. Ecco, mi sembra deviata, perché io vorrei sapere i dati tutti i giorni, a tutte le ore, come state facendo, sì, di quante persone muoiono dell'influenza normale, dell'AIDS e di tante altre malattie che ci sono nel mondo. Ecco, perché in questo caso veramente è una follia. Cioè, ci state veramente, è deviata come informazione. Sappiamo benissimo qual è la casa farmaceutica che ci sta, naturalmente, che sta godendo di questi frutti, di questo vaccino. Per cui, come mai, almeno da Radio 24 mi aspettavo un po' più di serietà. Tina, grazie. Tina, scusami, accettiamo ovviamente le critiche, ci mancherebbe, rientriamo nella categoria dei giornalisti, però a onor del vero Radio 24, anzi, stiamo cercando veramente di non fare nel modo più assoluto dall'inizio allarmismo. Diamo giusto le notizie proprio più eclatanti, però non si può dire che noi creiamo allarme o facciamo un tipo di informazione deviata su questa cosa, assolutamente, anzi a volte evitiamo anche di dare i dati, poi le informazioni, i dati che arrivano dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità o dall'Istituto di Sanità Superiore Italiano, dal Ministero della Salute, quelli naturalmente come informazioni le passiamo, ma ben lungi da noi di creare allarmismi oppure di avvantaggiare qualche casa farmaceutica. Giammai questo, Tina, si possono prendere le critiche, questa mi sembra un pochino ingiusta, almeno per quello che riguarda noi, non per tirarci fuori dal coro. Mi sembra che insomma si cerchi di essere abbastanza equilibrati. Intanto prendiamoci proprio qualche istante per sapere invece quali sono le informazioni sul clima, sulle piogge, sul freddo. Come stiamo? E con grande capacità di sintesi il nostro colonnello Mario Giuliacci ci dirà poche parole che cosa ci aspetta nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Colonnello. Sì, ciao Roberto, saluto a tutti. Bene, l'ennesima perturbazione di questa piovosa settimana sì. Si sta già facendo sulle regioni di nord-ovest, si stanno coprendo di nuvole in questo momento, mentre il sud il tempo va migliorando dopo è passata la perturbazione giunta ieri. Bene, mala tempora currunt, nel senso che di nuovo un deciso peggioramento su tutta l'Italia. Questa sera incomincerà a piovere su tutte le regioni di nord-ovest e la Toscana, questa notte su tutto il centro-nord e domani su tutta l'Italia, dalle Alpi alla Sicilia, pioggia, venti forti e neve soleate. Sì, dimmi Roberto. No, diciamo par condicio domani, quindi insomma non sarà risparmiata sì, nessuno. Sì, non facciamo distinzione tra nord e sud e qui nessuno potrà protestare. Sì, ma è una cosa duratura o passeggera questa cosa? No, direi che questa tira e molla del maltempo andrà avanti fino a mercoledì, diciamo interessando soprattutto però lunedì, martedì, mercoledì soprattutto il centro-sud dell'Italia, mentre al nord saranno in prevalenza nuvole, ecco. Però il tempo ancora non è per ristabilirsi, ma del resto siamo in autunno, le piogge ci possono stare, direbbero. Ci possono stare, è una mezza stagione, anche se non ci sono più. Va bene, grazie infinite colonnello Giuliacci, per te come sempre un fine settimana solare in ogni caso. Grazie colonnello. Grazie, un salutone Roberta, a te gli ascoltatori. E ritorniamo alle vostre telefonate 800 24 00 24. Vorrei sentire Giovanni da dove? Una polide. Da Reggio Emilia, ciao Roberta. Da Reggio Emilia dove sta arrivando Luca Telese, se poi lo vuoi incontrare alla stazione. Ah, bene, sì. Fa piacere. No, sono intervenuto perché secondo a mio parere la notizia più importante è la fronda che sta avvenendo all'interno del partito dell'Italia dei Valori. Sì, è vero, è del buon Di Pietro, il grande paladino della democrazia, della trasparenza, della serietà. E nonostante le sue famose imprese degli anni precedenti, che ricordo, si faceva prestare i soldi nelle scatole delle scarpe, si faceva prestare gli appartamenti in centro Milano per le sue cosette private. Ma sono state comprovate queste cose? Certo, sì. Tanto vero che si è dimesso anche dalla magistratura per questi motivi. Lui ha detto che era per entrare in politica, però insomma questa è una lettura sì, tua. Ma se ce ne fosse stato bisogno di capire qual è il clima di questo partito, non so se qualcuno ha visto 8:30 la performance di Di Pietro con Lilli Gruber e l'altro giornalista, mi sembra Roberto Arditi, direttore del Tempo, l'atteggiamento, l'aggressività. È un sanguigno, diciamo. Però Giovanni, tu dicevi la fronda, effettivamente c'è, si dice che sia De Magistris che lavora un po' a questa fronda, quindi una corrente che cercherebbe un po' di ribellarsi. In realtà poi succede un po' in tutti i partiti, Più che una corrente mi sembra un fiume in piena, anche perché adesso che ha riciclato il figlio, che per i motivi che sappiamo era stato sospeso dal partito, si sta scatenando un putiferio non da poco all'interno dell'Italia dei Valori. Sì, poi, è vero. Se mi permetti, Roberto, volevo rispondere a quel pseudo imprenditore che ha chiamato prima ma io non so che paesi lui vada in cui sente ridere di Berlusconi, io non so quale città, anche io viaggio molto all'estero e francamente io mi ricordo che si rideva di più quando c'era Prodi presidente insomma, della ognuno Commissione ride Europea secondo il proprio orientamento. Va bene, grazie Giovanni, ognuno giustamente difende e ha il suo punto di vista, non per niente, dico sempre liberamente, con le opinioni libere. Luca Telese, prima di avventurarci poi anche per cercare di tradurre qualche termine caratteristico di questa settimana, poi con Valeria Della Valle. Luca, sì. Mentre viaggi, i commenti degli ascoltatori, hai voglia di ritornare su sì, questi... c'era una cosa che mi aveva colpito, è giusta questa critica, bisognerebbe dare i dati di tutte le vittime e di tutte le malattie. Ma sono tante le malattie. Però è vero che quando il governo e il sottosegretario Fazio hanno iniziato a dare i numeri, nel senso che ogni giorno dicono una cosa diversa, poi noi dopo la scriviamo. Sì. Anche qui siamo ambasciatore non porta pena, direi. Direi di sì, che c'è davvero poca chiarezza, anche la Marziana da Marte, un po' ha fatto che neanche da Marte hanno capito bene come sta. Che il vaccino sarebbe arrivato, poi non è arrivato, poi la malattia non c'era, poi c'era, poi sarebbe esplosa a dicembre. Poi l'Italia era più colpita e meno colpita, non... esatto. Così adesso secondo la me. Pandemia è esplosa. Allora, ancora vediamo un po', c'è Fulvio da Cesenatico, dicevamo. Sì, Fulvio. Sì, sono qua. Sì, sei qua, sono contenta, eccomi, io sono qui. Pronto, sì, dunque l'ascoltatore che mi ha preceduto poi ha fatto l'intervento che volevo fare io, ma lo faccio lo stesso, sì. In merito sì al pseudo imprenditore. No, non chiamiamo il pseudo imprenditore, dopo no, all'imprenditore. È un imprenditore, sì. Sì, va bene, io dico, volevo solo fare un appunto, sono orgoglioso finalmente di essere italiano dopo tanti governi che ci hanno preceduto, non ultimo quello di Prodi che è stato vergognoso secondo me, e il nostro Presidente del Consiglio deve continuare così come sta continuando, per cui mi sento sempre più italiano in questo momento. Per quello che riguarda Vespa, sì, sarà anche il lacchè di Berlusconi, io ho seguito diverse trasmissioni, devo dire che i toni non erano così accesi come nelle trasmissioni di Santoro, ma poi ognuno la vede a modo suo. Quindi devo dire, di quello che pensano i francesi non me ne può fregare di meno, perché sappiamo cosa pensano degli italiani, e finalmente che abbiamo un Presidente del Consiglio che ogni tanto ci fa fare qualche buona figura all'estero, dico, con buona pace dei francesi. Bene, tutto qua. Continua così Berlusconi, che a me va bene così. Ecco, lanciato l'appello nell'etere, grazie a Fulvio. E adesso invece vorrei confrontarmi con una donna di grande intelligenza, di grande capacità di sintesi, anche lei, naturalmente. Mandato un piccolo avvertimento già così un po' subliminale, e cara Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, adorata Valeria, ciao Valeria, eccomi qua. Senti, visto che anche gli ascoltatori ci sono ritornati e qualcuno anche con qualche critica, la questione dell'influenza, questo termine che torna, ci inquieta ultimamente, fino a poco tempo fa una roba un po' scocciante, e anche poi altri diciamo significati, accezioni. Sì, tanti. A te, prego. Ecco, allora, vediamo un po' come stanno le cose. Beh, c'è moltissimo da dire sull'influenza, ma cercherò di essere breve, perché tutti quanti sappiamo già da molto tempo che l'influenza è prodotta da un virus, però continuiamo da secoli a chiamarla con questo nome, influenza, se ci pensiamo un momento, che alludeva originariamente a che cosa? Agli influssi astrali, sia quelli buoni sia quelli cattivi, sugli uomini e sul loro destino da parte degli astri. E poi da questo significato originario la parola ha assunto proprio un significato un po' nuovo, perché questo influsso degli astri è stato individuato anche nel diffondersi di malattie contagiose, quindi ecco che il significato si è allargato, ma nel senso col quale lo usiamo oggi dobbiamo risalire al 700, perché nel 1743 esattamente è proprio la data dell'epidemia che si diffuse tra l'altro dall'Italia in tutta l'Europa. E allora ecco che questa parola influenza si è in un certo senso stabilizzata e continua a essere usata per indicare quella malattia infettiva acuta che è provocata appunto da particolari virus che poi nominiamo con A, B e C. Ma la parola, arriviamo al punto, sì, anche siamo... ovviamente ha avuto un altro significato, che è quello estensivo, no? Quello che allude all'azione esercitata da una cosa o da una persona su altre, avere una buona o una cattiva influenza. Una allora, come sempre, per chiudere in maniera un po' meno ansiogena, visto l'argomento, che cosa possiamo dire? Speriamo che i mezzi di comunicazione, visto che c'è lì Telese e che ne parliamo tanto, e anche invece gli organi di governo facciano in modo che la loro influenza sia positiva nel far capire ai cittadini di che influenza si tratta e come dobbiamo regolarci. Grazie Valeria Della Valle. Prego. Adesso con l'influenza positiva di Valeria Della Valle vi ricordo che domani, se avete voglia di ritrovarmi, sono le 19:05 sempre qui su Radio 24 con Storielle, ci sarà Rigo Cipriani, fondatore storico, mitologico dell'Harris Bar di Venezia. E Luca Telese, ci stiamo salutando in 30 secondi, 32, tu hai voglia di fare una battuta finale? Sì, mi era dispiaciuto in quel battibecco fra gli ascoltatori che si dicesse lo pseudo imprenditore. Uno può dire l'imprenditore con cui non sono d'accordo. Certo, sono assolutamente d'accordo. Di negare l'altro, ma anche di dire anche mi vergogno di essere italiano perché c'è proprio Berlusconi. Se non usciamo dall'Italia delle tifoserie in un senso o nell'altro, finiamo veramente male. Grazie Luca Telese, buon viaggio, buona continuazione. Roberta Giordano a voi come sempre augura sereni orizzonti.